Premetto subito che non desidero applausi. Dunque, l'hotel di schiena. Io sono presente. Ho qui già credo, quindi gli appunti sono molto veraci e me ne attacco quelli, anche se la tentazione di rispondere subito all'Angela è tormento grossa, insomma, questa foglia di Chicago, risulta foglia di Chicago, cioè avrei tentazioni forti di buttare subito in polemica, ma resisto. Lo Stato moderno di vent'anni dopo. Forse non li faremo. Parlo, se mi consente l'attualità, a significato plurale. Forse lo rifaremmo, anche se naturalmente adesso è un po' troppo di moda. Forse grazie a tutti quelli che in questi 30 anni hanno cercato di spiegarci che si poteva e che anzi si doveva farne a meno di quel concetto. Perché credo che uno dei dati più, per me, più interessanti della nostra iniziativa è stata proprio la reazione anche di rifiuto che della categoria del moderno, una categoria che sono io dopo, insomma, no? Che il nostro libro ha prodotto. 30 anni sono tanti, tanto eravamo giovani e anche sventati, insomma, cioè non credo che a quest'età forse lo rifarei, cioè, lo rifarei nel senso che l'ho rifatto una volta e magari lo rifarei adesso, ma forse con l'esperienza che uno ha a 50 anni non si metterebbe in un'esperienza, cioè siamo stati un po' dissennati da un certo punto di vista a farlo all'inizio. Era una spinta che abbiamo avuto, tre che sono qui, cioè Ettore Rotelli, Giuliana, io e uno che non c'è più, che è Roberto Ruffini, che ha partecipato molto all'ideazione del progetto e poi naturalmente ha rinunciato quando si è trattato di mettersi a lavorare, perché aveva da fare, insomma, un po' di cioè. E io non mi ricordo più bene, no, Ettore, ma secondo me c'era anche quella volta, consciamente o inconsciamente, una motivazione politica, insomma, si cercava di andare dietro ad una ragione di comprensione di fenomeni che stavano pur succedendo in Italia. Siamo all'incirca verso la fine degli anni 60, negli ultimi anni 60, no? E io credo che ci fosse questa ragione di dar conto di una modernizzazione che comunque era in corso da una decina d'anni nel nostro paese e che trovava vagamente in quegli anni un compimento anche critico. Sarebbe stato più che critico anche di lì a poco, ma comunque c'erano motivi per sintetizzare in una formula un processo che era in corso. Così almeno lo vedo io adesso. Ora, l'operazione appunto mi sembra ha avuto successo, come dicevo, anche per la reazione che ha suscitato di discussione o di voglia di generale. A tutti era chiaro fino da allora. Io personalmente venivo da una forte confrontazione con Brunner e ci era chiaro a tutti però che noi sapevamo di usare un concetto, cioè facevamo lo sforzo di mettere a fuoco un concetto, uno strumento concettuale, uno strumento di lavoro. Ecco, solo che 30 anni fa parlare di concetti era diverso di parlarne adesso, perché perché proprio questi 30 anni, ad esempio in, soprattutto in Germania, questi 30 anni sono caratterizzati dallo scoppio, insomma, e anche dall'applicazione di questa corrente storiografica chiamata appunto storia concettuale, storia dei concetti, storia del concetto, storia del concetto, che era ben distinta, con produzioni grosse, insomma, di storiografica. Un'altra cosa che bisogna aggiungere è che in fondo questa impostazione aveva anche un nemico, più o meno conscio o inconscio, ed era invece la storia alla francese, insomma. Quindi una storia che privilegiava altri campi di ricerca e altri metodi, e che ostentatamente ignorava problemi costituzionali e anche problemi di definizione formale di questi problemi istituzionali. Quindi anche questo, cioè, per quel che mi riguarda, c'era anche un altro nemico, che era la storiografia marxista, che anche solo allora iniziava in maniera aperta a recuperare il concetto di Stato moderno come possibile strumento di comprensione di processi costituzionali nell'età moderna, operando la vecchia e consolidatissima tradizione di leggere invece tutto in chiave di feudalesimo fino a un certo periodo, riducendo il problema Stato moderno al periodo post-rivoluzionario, capitato recentemente grazie alla consueta assistenza del mio amico Maurizio Ricciardi di leggere una recensione di Korsch al libro della Inze che dibatte il problema del federalismo della rivoluzione francese. Questa introduzione, questa lunga recensione di Korsch è un bello inno marxista, storico-materialista, al problema dello Stato come strumento di potere, del potere da parte della borghesia, finalmente giunta ad essere classe dominante. E anche questo era, secondo me, dentro nelle cose. Quindi nella nostra dissenatezza c'era però un insieme di ragioni che più o meno condividevamo, magari sono neanche tutte espresse, ma che alla fine, secondo me, stanno. Quello che mi interessa di più però è il problema concettuale, perché questo è anche un po' il percorso che io ho seguito personalmente di più negli anni successivi alla pubblicazione dello Stato moderno. Studiare come concetto, e qui dico appunto studiando Gunther, non si poteva non capirlo che fosse così. Il problema allora però per noi era quello, cioè pre-Kempinski Schichte, il problema era di collegare il concetto stato moderno come concetto all'altra categoria, all'altro esperiente metodologico che invece era allora più usuale, cioè quello che vediamo di tipo ideale. Io ho oscillato molto a lungo e ancora adesso oscillo su questa tendo tra questi due possibili luoghi metodologici, insomma, concetto e tutto ideale. Allora sicuramente pensavo di più forse ad un concetto in senso generico e invece a tipo ideale in senso più sostanziale. Allora erano pochi anche gli storici in Italia che usavano le anni fa, proteggere le tutti i capelli. No. Io comunque lo devo dire in maniera molto aperta, come faccio sempre, tutti questi agganci, Brunner, Weber, Stato Moderno, eccetera, eccetera, li ho ricevuti da Miglio. Questo sia molto chiaro. E dalle cose che lui faceva e più che altro faceva fare nelle grandi istituzioni che ha fondato a Milano in quegli anni. Quando abbiamo fatto l'anno scorso la festa dell'ISA, è stato detto e è venuto fuori frequentemente questo. Il nostro libro si situa in quella atmosfera lì, che adesso non si può qui naturalmente riprodurre, per più giovani, ma comunque c'è. Termini, concetti, tipo ideale erano strumenti rudimentali di cui ci servivamo nel tentare di mettere a fuoco questa bestia nera della storiografia politico-istituzionale e costituzionale che era lo Stato. Questo era il nostro punto. Uno Stato che si abbatte non si cambia, diceva allora, e che quindi neanche va studiato, come diceva Antonio Negri, ad esempio, in un libro molto fortunato uscito da Feltrinelli, nell'enciclopedia Fischer Feltrinelli, a cui hanno partecipato, è un libro sillogico, insomma, a cui hanno partecipato più bei nomi del democratismo italiano, dicendo anche cose che a leggerle adesso fanno impressione. Consiglio ai più giovani di andare a leggere questo libro, Fischer Feltrinelli, non solo le introduzioni della storia negra, contro cui noi abbiamo polemizzato nella nostra introduzione, non ricordo quale volume, dello Stato moderno, dicendo che invece lo Stato, anche se andava battuto, forse bisognava copiarlo, perché così magari si abbatteva meglio. Allora avevamo anche qualche cammino, c'era qualcuno che aveva qualche tendenza. Allora comunque fatto sta che noi volevamo questa bestia nera un po' esorcizzarla, insomma, c'era questo intento. C'è questo intento politico, insomma. E è opportuno che anche D'Angela nella sua presentazione abbia sottolineato questo aspetto. Insomma, negli anni 60 lo Stato era visto più come una fascistata che come una roba democratica, nel nostro ambiente. Poi mi direte che non è che ho messo la generazione. C'è una mia famosa polemica con Roberto, che lui diceva sempre che noi partevamo due scuole parallele ma distinte. Lui a quella democratica e pluralistica, e io a quella invece statalista e nazista. Noi studiamo infatti il federalismo, e di questo diremo stasera, di quanto il federalismo possa essere democratico. Oggi non basta più, il quadro si è complicato nel semplificarsi. Appunto, si deve fare conto della Berlinskeschichte. L'altro giorno Cozzelli parlava della Berlinskeschichte proprio riferendosi ai temi, diciamo così, della Verfassung, della Costituzione, ai temi costituzionali. Ormai faccio fatica a capire questi discorsi, anche perché sempre più spesso mi tormento. Ma fatto sta che anche lui, bisogna dire, che diventa sempre più cristallino e autoreferenziale. I suoi concetti sono lucidi e spettrali, ma rischiano di cancellare del tutto, non dico la realtà storica, cui nessuno crede, ma anche ciò che la gente può avere ogni tanto ritenuto che fosse la realtà storica. Valori, sentimenti, dottrine, oppure anche Deutungsschemata, schemi di interpretazione, come dice bene Huxley, che considero un autore da mettere in circolo quindi di attraverso le cose Elnek, ma sempre con un profondo rispetto per Otto Brunner. Di Deutung Schelda. Oggi dunque cosa farei? Dovessi occuparmi di nuovo, dovessi rifare lo stato moderno. Forse sarebbe inevitabile fare quello che Langer sta cercando di fare, cioè sarebbe proprio necessario occuparsi di più di questi problemi di metodo e di comprensione. Cos'è che li chiama singolari collettivi, questi nomi, no? Costituzione, Stato, burocrazia, dice sono dei singolari collettivi che si sostituiscono ad un precedente uso linguistico pluralistico. Le costituzioni diventano improvvisamente la Costituzione, gli stati diventano lo Stato, le amministrazioni diventano l'amministrazione. Lui dice nella metà del Settecento si assiste a questo fenomeno importante dal punto di vista non solo lessicale ma anche evidentemente dottrinario della formazione di questi singolari collettivi. Però dopo lui però tende a mettere tutti sullo stesso piano, dando quindi appunto cristallizzandoli, insomma, centralizzandoli troppo e quindi privando questi concetti, secondo me, di una loro ulteriore potenzialità di ricerca. Oggi bisognerebbe avere che confrontarsi con questo problema, evidentemente, almeno per essere un po' più consapevoli delle condizioni di pensabilità di quei concetti e anche delle condizioni di applicabilità. Questo è il problema che sta dentro questo seminario, questo progetto di ricerca d'arte. E anche per, però, anche però evitare appunto la solita notte grigia in cui tutto finisce con avere, i concetti finiscono con avere lo stesso grado di ampiezza e di profondità semantica. Se vi si assoltizza nel modo che fa cos'è che adesso, secondo me questi concetti perdono l'utilità e la necessità necessaria per costruire un discorso, diventano di nuovo delle caselle, delle etichette classificatorie, possono dirci molto su un presunto salto di civiltà, per così dire, no? Per tu della Zattelzai. Quindi servono, letti in questo modo, per dire c'è un'età di trasformazione, ma in questo stesso momento questi concetti diventano inutili o perdono di utilità invece per una loro applicazione al di fuori della Zattelzai. Io credo che questi concetti mantengano e possano mantenere la loro validità e il valore che ha significato un'importanza per la ricerca se essi possono continuare ad essere impiegati in maniera articolata fra di loro, non necessariamente sempre nello stesso modo, dipenderà dalle opzioni. Un cacciavite può essere usato per vari scopi, un utensile può essere usato per vari scopi, anche se non per tutti. Cioè il tizio che usa il cacciavite ha una mano e una intelligenza che la guida. I concetti hanno delle mani e delle intelligenze che li usano e non hanno una vita propria. Cosa che invece nella sezione di cos'è mi pare che tendano ad assumere, che va molto bene, ma è una filosofia della storia, non è più una metodologia della storia. Ecco. Per esempio, in modo particolare, questi concetti secondo me sono inquadrabili, articolabili in rapporti di funzionalità, subordinità, dipendenza tra di loro, in una qualche gerarchia, no? Si parla di storia costituzionale, anche per il Medioevo. E la prostituzione quindi non è solo una cosa che diventa singolare collettivo a metà Settecento, ma è un concetto che, ma però non si parla, o è difficile parlare, o produce aporie, parlare di Stato per il Medioevo. Allora, che rapporto c'è tra Costituzione e Stato se entrambi sono concetti singolari collettivi che nascono a metà Settecento? Non so, faccio solo per spiegarmi, insomma. Il problema di metodo è un problema grosso. I concetti, credo, c'è bisogno, ma però non bisogna cadere nella trappola di far diventare questi concetti ciò che si deve spiegare, ma i testi sono ciò che serve per spiegare altre cose, insomma. E poi dopo questa funzionalità, subordinità, subordinazione, dipendenza possa anche variare, no? A rotazione, secondo chi li usa, secondo i punti di vista, eccetera. Insomma, bisogna arricchire, complicare non appiattire e chiudere il discorso. Questo sarebbe la prima, diciamo così, preoccupazione che avrei oggi a, è logico, insomma. Qui si apre proprio in questa leggerezza, appunto, anche dei concetti. Secondo me mi si apre una seconda prospettiva che 30 anni fa avevo meno chiara. Quella che sto cercando di chiamare, ma non ci sto lavorando sopra abbastanza a fondo, ogni tanto lo dico poi dopo mi dimentico, quella che sto cercando di chiamare la prospettiva, la preoccupazione che sto cercando di chiamare della tecnologia politica. Cioè, penso che, quindi diciamo al posto, cioè la strettezza, la rarefazione dei concetti, invece adesso dico la tecnologia politica. Cioè, penso che questi problemi che noi inquadriamo comunque, a cui riferiamo il nostro discorso quando parliamo di Stato, siano spesso, quasi sempre, anche problemi tecnici che avevano quelli che li gestivano. Cioè, il problema dello Stato moderno, noi che lo scolleghiamo in questo modo esistoso, è un modello ideale di tanti piccoli problemi tecnici che storicamente si sono posti. Da quando, come, che modo risolti, che cosa ha a che fare la riflessione del tempo su ciò? Tecnologia politica, appunto all'opposto del discorso appena fatto. Dai grandi principi, concetti, ai utensili da laboratorio. Io sono convinto che solo dalla mistura di questi due livelli di ragionamento, cioè di riflessione, di attenzione, può provenire una soddisfacente comprensione di quei fenomeni di organizzazione politica e di disciplinamento sociale, oltre che di liberazione individuale e di gruppi, che siamo soliti far cadere nella pentola dello Stato moderno. E qui uso l'espressione grafica di Miglio, virgolette doppie, Stato, aperta parentesi, moderno, chiuso parentesi, chiuse virgolette doppie. Stato meno. Dopo non sto, è solo risalto. Io ho detto la bella grafica barocca di Miglio, tutto armato, maiuscolo di virgolette parentesi. Cosa vuol dire tecnologia? Noi è un altro filone interessante, quello della ragione di Stato. Ho fatto adesso un convegno a Napoli qualche anno fa, fatto con Rembrandt, sta camminando molto bene secondo me questa direzione. Spero che cammina meglio, abbiamo visto questa direzione attualmente in giro per l'Italia e non solo. Le ragioni di Stato, le ragioni dello Stato, e anche qui lo veramente molto bene che ho organizzato a Napoli, qui in Napoli, e le ragioni dello Stato, la mappazione, dico io, delle zone di crescita dell'interesse e della consapevolezza del principe dello Stato a regolare affari. Capire che ci sono di, si potrebbe dire, delle zone di neutralizzazione alla fine. Ci sono da fine 500 in poi zone che improvvisamente si colorano, mentre prima non sono colorate, è una mappa che insomma, ecco, invece si colorano con tecniche, scritture, sapere. Io questo sapevo già naturalmente da quando Emilio mi ha dato la tesi sul cameralismo, anche se in commissione di docenza Mastellone dubitò che i cameralisti potessero rientrare nel pensiero politico, ma mi diedero lo stesso la libera docenza. Mappazione dei terreni di neutralizzazione dell'imprevisto mediante la pubblicizzazione e formalizzazione della prudenza provvidenzia scienzia, con la definizione di competenze e di tecniche di trattazione dei problemi da parte di autorità operanti tecnologiche. Con gli strumenti della scrittura, del territorio, del diritto canonico. Tecnologia vuol dire quello, vuol dire da una parte avere strumenti utili per risolvere problemi precisi, dall'altra parte individuare quelli come problemi precisi che si possono risolvere, quelli rispetto ai quali esiste una tecnologia adeguata. Questo secondo me è un problema cruciale nella storia dell'organizzazione del potere, e fin quando non si affronta bene, fin quando non si apre anche per la politica una storia della tecnologia accanto alla storia della scienza, come si fa per l'altro campo, insomma, non andremo più molto lontano. Credo che è da questa trattazione qui tecnologica che può venire fuori anche una spiegazione dello scoppio della questione costituzionale, con cui il problema dello Stato è strettamente collegato. La questione costituzionale come sintesi pratico-tecnologica di quel progressivo crescere di statualità, dovuto ai maggiori crescenti, l'economia, l'amministrazione, il diritto, la giurisdizione, le finanze. La Costituzione è la via per cui lo Stato moderno, come sopra, si fa ancora più moderno, secondo me. Tanto moderno da cessare, forse alla fine, di essere più Stato. Anche perché ci sono finalmente tecnologie nuove. La scrittura forse non è più una tecnologia, il territorio forse non è più diritto, forse sì. Allora farei dunque di più, o in altro modo, storia della tecnica politica accanto a quali concetti oggi si dovesse fare lo Stato moderno. Ma resterei sempre più legato, sarei sempre legato al vecchio modo di dire, lo Stato moderno. C'era appunto nell'opera che operai in un'opera che ho visto tutto Masanieri, curioso, l'altro giorno. Un bel refrain che diceva: Der König lebt, die Regenten sterben. Il re vive, i governanti muoiono. Lo Stato vive, le forme cambiano.